Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette e 9 minuti, inizia l'ultima puntata della settimana di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, fermo restando che come ogni venerdì c'è l'appuntamento con la poco invidiabile classifica di Focus Economia sugli sprechi e i malfunzionamenti dei nostri enti pubblici. Alcuni dicono basta, non ne possiamo più. No, noi continuiamo. Tra l'altro oggi c'è anche, non solo non ci sono le regioni, i comuni, le ASL, ma c'è anche l'ENIT e, dispiace dirlo perché non è mai bello parlare dei concorrenti, anche la RAI, ma non nella polemica sui giornali oggi e sui giornali di questi giorni su Rai 3, ma su altri elementi che riguardano anche la presidenza del Consiglio. Detto ciò, andiamo subito alle notizie di questa giornata. Per quello che riguarda la borsa, più 1,20% Milano, più 1% Parigi, più 0,60% Francoforte, più 0,60% Londra, meno 0,60% il Dow Jones. Euro su dollaro a quota 1,12. Tra i titoli segnalo Saipem più 5,50, UX più 4,80. Monte dei Paschi più 4,60. Qui entriamo anche in uno dei temi di approfondimento di questa puntata. Oggi sul Sole 24 Ore viene anticipata l'esistenza di un dossier redatto da una banca d'affari in cui si ipotizza una fusione tra Unicredit e Intesa San Paolo con un successivo coinvolgimento del Monte dei Paschi. Ora, subito è arrivata la smentita sia del portavoce di Unicredit che di quello di Intesa San Paolo. Sarebbe una fusione enorme, chiaramente stiamo parlando dei primi due gruppi bancari italiani, che poi, secondo quanto riportato oggi, potrebbe portare anche all'incorporazione di Monte dei Paschi. Allora, sul Sole di 24 Ore di oggi trovate anche il commento di un'ipotesi che è vicina alla fantafinanza, però, e noi non ci occupiamo di fantafinanza, però il tema resta, perché da qui a gennaio dovremo abituarci a un insieme di indiscrezioni, ipotesi, voci, rumors che riguarderanno le fusioni bancarie, perché si devono trasformare in SPA 10 banche popolari italiane, le famose popolari coinvolte dalla riforma del governo, quelle che hanno più di 8 miliardi di euro di patrimonio. E prepariamoci, dicevo, che le voci si rincorreranno nelle settimane scorse e anche nei mesi scorsi si era molto parlato di un possibile matrimonio tra UBI e Banco Popolare, oppure UBI e la Popolare di Milano, però la Popolare di Milano era data anche in sposa o in marito, non mi interessa il rapporto di genere, con la Popolare Emilia Romagna e con la Cassa del Risparmio o con la Cassa del Risparmio di Genova. La Popolare Emilia Romagna a sua volta avrebbe messo gli occhi su Veneto Banca. Sembra tramontata l'ipotesi di fusione Veneto Banca Popolare di Vicenza, alla luce dello slogan due debolezze non fanno una forza. È un'operazione sgradita anche alla Banca Centrale Europea. Non esclusa invece l'ipotesi di nozze tra UBI Banca e Monte dei Paschi di Siena. A me ricordo un po' Sette Spose per Sette Fratelli, con il problema che poi di solito in questi casi l'ultimo, adesso non mi fate dire che è una battuta volgare, non la farò, per cui l'ultimo si sceglie quella o quello meno conteso. Vedremo, ne parleremo come sempre anche del resto dell'attualità che oggi torna ad essere a coinvolgere la vicenda Dieselgate, quindi Volkswagen, perché secondo quanto riporta il Financial Times le autorità americane starebbero estendendo l'indagine sulle emissioni diesel anche ad altri marchi negli Stati Uniti. L'indagine riguarderebbe una ventina di modelli di BMW, Chrysler, General Motors, Land Rover e Mercedes-Benz. Oltre alla cronaca cercheremo anche di capire diciamo due settimane dalla deflagrazione di questa vicenda che cosa stia succedendo in Germania e anche alcuni aspetti che in questi giorni sono stati evocati, cioè si è detto, lo dico in maniera un po' brutale, sì, tutta questa vicenda assume questo rilievo non solo perché Volkswagen era il primo, secondo, secondo degli anni produttore mondiale, ma perché coinvolge la Germania e la sua presunta superiorità E questo atteggiamento che la Germania ha avuto in Europa, soprattutto in questi anni, nei confronti della Grecia e degli altri paesi, irritando anche la Casa Bianca. Quindi, diciamola tutta, c'è un godimento in più nell'opinione pubblica mondiale perché è toccato ai tedeschi. E di questo parleremo con Tobias Spiller, che voi ricorderete, è corrispondente dell'Italia della Frankfurter Allgemeine Zeitung, ma soprattutto, l'abbiamo avuto ospite altre volte, strenuo difensore della linea tedesca nei confronti dell'Europa. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Rapidamente le altre notizie in breve. Chiedete, e giustamente, anche perché da poco terminato il programma di Oscar Giannino, sì, confermo che lunedì partirà un nuovo appuntamento a Radio 24 la mattina alle 8:15 fino alle 9 con Attenti a noi due, quindi il diavolo e l'acqua santa, l'acqua e l'olio, Alessandro Milan e Oscar Giannino, che si confronteranno in maniera abbastanza nitroglicerinica sui temi d'attualità della mattinata. Confermo, lunedì dalle 8:15 in poi si chiamerà l'appuntamento all'interno del 24 mattina Attenti a noi due. Un po' di promozione interna, andiamo con le altre notizie in breve. Invece, il dato di oggi che arriva dall'America delude gli analisti. C'è chi già si spinge a dire forse la banca centrale americana, la Federal Reserve, potrebbe a questo punto rivedere la sua intenzione di aumentare i tassi di interesse entro l'anno. Non lo so, però l'economia americana ha creato a settembre 142.000 posti di lavoro, il tasso di disoccupazione resta al 5,1%, quindi molto basso soprattutto se confrontato a quello europeo, però il dato sui posti di lavoro è inferiore alle attese degli analisti, anche di un bel po', si attendevano 200.000 posti di lavoro in più. Secondo la Casa Bianca, il rallentamento della crescita all'estero e le tensioni sui mercati finanziari hanno pesato sull'attività economica di settembre, cioè c'è un rallentamento dell'economia mondiale che stiamo raccontando da quando siamo rientrati a fine agosto, e la Casa Bianca dice date le aumentate incertezze nel mondo è imperativo che gli Stati Uniti non aumentino l'incertezza con l'austerity, e qui molti hanno voluto leggere un riferimento alla Federal Reserve. Austerity può voler dire anche infatti aumento dei tassi di interesse, giro di vite sul costo del denaro, tant'è che secondo vari analisti la Federal Reserve sarà costretta a posticipare l'aumento dei tassi di interesse al prossimo marzo. E che un raffreddamento vi sia nel ciclo economico come prezzi soprattutto, lo si vede oggi dai prezzi della produzione industriale nell'area euro, meno 0,8% ad agosto rispetto a luglio, avevano già fatto un meno 0,2% rispetto a giugno. Su base annua sono calati del 2,6% i prezzi della produzione industriale, in Italia è stato del 3,6% il calo, in Francia del 2,1%, in Germania dell'1,6%, nel Regno Unito addirittura dell'8,4%. Sì, vedo anche molti messaggi su Volkswagen, ne parleremo. Oltre a quanto dicevo del Financial Times, la Francia ha aperto un'inchiesta per truffa aggravata nei confronti dei motori diesel truccati dalla Volkswagen. L'antitrust in Italia ha aperto un'istruttoria per pratiche scorrette, punta il faro sulla distribuzione auto in Italia. E oggi il ministro dei trasporti Delrio ha commentato: sono arrivati i dati dell'azienda, procediamo, ritireranno i veicoli contraffatti, non so come altro chiamarli, taroccati dicono alcuni, mi pare che le cose vadano nella direzione giusta, sostiene sempre il ministro Delrio. Veniamo all'Italia invece, si sta chiaramente andando a stringere sulla legge di stabilità, vi sarebbe anche l'ipotesi di mantenere l'esonero contributivo per i nuovi assunti a tempo indeterminato, ma dimezzando la soglia annua massima per le decontribuzioni, da 8.000 euro a circa 4.000. Questo per le assunzioni fatte nel 2016, quindi verrebbe data la possibilità anche nel 2016 di avere degli sgravi contributivi per le imprese che assumono a tempo indeterminato, ma non sarebbero così corposi come quelli del 2015, che arrivavano fino a 8.000 euro all'anno, sarebbero della metà. Secondo poi altre indiscrezioni, il valore degli interventi della spending review sarebbe sceso da 10 a 6,7 miliardi, con tagli più morbidi su enti locali e sanità. Per contro tornerebbero i tagli lineari ai ministeri, che dovrebbero ridurre il loro budget di un altro 3%. Si spera anche in un buon risultato della voluntary disclosure, dei soldi che arrivano da 200 miliardi detenuti illegalmente all'estero, ne abbiamo parlato molte volte, e su ulteriori concessioni da parte di Bruxelles, ma la partita è tutta ancora da giocare. Allora vedo altri messaggi, va bene. Andiamo avanti. No, nessuno sta gongolando per i guai della Germania, lo dico in maniera molto netta, lo dirò anche dopo, anche perché saremo abbastanza masochisti, nel senso che l'Italia poi fornisce 3 miliardi di euro all'anno di componentistica al settore auto in Germania, per cui obiettivamente no, si tratta di capire se dietro questa vicenda non ci sia qualcos'altro oltre a avere truccato e ingannato le autorità di vigilanza e gli automobilisti che compravano quei modelli, se non ci sia qualcosa di più inutile girare, certo non facciamo gli ipocriti. Fosse successo a un altro paese, forse vi sarebbe stata un po' meno attenzione e anche così senso di rivalsa, ma arriviamo dopo a questo. Ancora due notizie. Il primo riguarda invece l'industria farmaceutica, nel senso che oggi i dati nuovi segnalano un aumento della produzione del 4,5% nell'industria farmaceutica italiana. Sono 174 gli stabilimenti in Italia con 63.000 addetti, 2 miliardi e mezzo di investimenti fatti nel 2014. E il 72% di questo va verso l'export. Siamo, come ha ricordato il presidente di Farmindustria Scaccarabozzi, siamo arrivati ai massimi storici nell'export e potremmo anche superare la Germania come valore nell'esportazione. Tutto questo durante il roadshow di Farmindustria, innovazione e produzione di valore. E poi invece il GUP di Milano, Alessandra Clementi, ha prosciolto sia Paolo Scaroni che la società Eni nel procedimento. Paolo Scaroni è l'ex amministratore delegato del gruppo Eni, nel procedimento con al centro presunte tangenti versate da Saipem a pubblici ufficiali algerini. La vicenda riguardava le tangenti Saipem in Algeria. È stata invece rinviata a giudizio la società Saipem, indagata in virtù della legge 231. (349) 238 6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Allora, andiamo all'appuntamento con la poco invidiabile rubrica o classifica di Focus Economia sugli sprechi e il malfunzionamento della nostra pubblica amministrazione. La classifica della settimana. Allora, partiamo dal quinto posto. Come sapete, questa classifica riunisce le notizie pubblicate sui quotidiani, Sole 24 Ore, Corriere della Sera, Repubblica, le pagine locali. Ringraziamo tutti i colleghi, poi io dico sempre a partire dai mitici Stella e Rizzo, perché loro forniscono molto materiale, tutti i colleghi, non sono notizie che scoviamo noi come dei segugi, sono pubblicate, spesso finiscono nella stampa, nelle pagine locali, noi le selezioniamo e le riproponiamo come una specie di rassegna stampa, così, abbastanza deprimente, in modo che tutti se le ricordino, e anche perché in alcuni casi, essendo pagine locali, possono non essere stelette da altri lettori. Allora, vorrei partire con una buona notizia, apparentemente. Infatti l'abbiamo messa al quinto posto. Cioè, a Bari si sta cercando nel Consiglio Comunale di risolvere la vexata questio del fatto che i consiglieri comunali in questo paese, non tutti, ce ne sono di bravissimi che prendono praticamente niente di gettone, però in alcune, soprattutto in alcune grandi città, l'abbiamo raccontato per anni, hanno questo vizietto di risultare sempre presenti e prendersi il gettone e poi non esserci, o abbiamo visto anche casi pazzeschi di sedute di presenza durata un minuto della persona che era lì da altre parti, il teletrasporto, di tutto. Allora, il Comune di Bari cosa hanno fatto? Hanno deciso di affidarsi all'informatica e alla tecnologia, lo ha spiegato il presidente del Consiglio Comunale Pasquale Di Rella. E cosa vogliono fare? Vorrebbero introdurre un badge che permettesse di verificare non solo la correttezza del voto, come è attualmente, e quindi evitare il fenomeno dei pianisti, di quelli che votano per altri, ma anche l'entrata e l'uscita, perché c'è un nuovo regolamento che dice, che è già esecutivo, che i consiglieri comunali baresi riceveranno i 73 euro per ogni seduta, scusatemi, e per ogni seduta di commissione e di consiglio, solo se sono presenti con almeno se sono presenti per almeno la metà della durata della riunione. Ora, qual è il problema? Questo, a parte che è deprimente arrivare a un badge, però se è necessario facciamo. Spetta ai segretari comunali annotare l'orario di entrata e l'orario di uscita e cronometrare la partecipazione, ma ci rendiamo conto? Solo dopo aver raggiunto quota 50% del tempo scatta l'accredito del gettone. Il problema è che il presidente del Consiglio Comunale di Rella dice che intanto va formato il personale. Ora io mi chiedo come tu debba formare il personale per cronometrare e verificare che il consigliere comunale stia almeno metà della seduta per prendere il gettone. Ma qui siamo veramente il paese dei paradossi. Devi formare il personale, devi mandarlo dallo psicologo perché andrà in depressione, perché io faccio segretario comunale per verificare che il consigliere comunale eletto svolga la funzione per questo eletto e non entri, pigli 73 euro e se ne vada, come nei migliori casi. Allora, deve formare il personale, quindi ha chiesto ai segretari comunali e funzionari una maggiore attenzione a registrare entrate e uscite, manco fossero dei poliziotti. Diventa però complicato monitorare la presenza dei 37 componenti. Stiamo studiando un software, ha aggiunto Di Rella, con un sistema marca tempo. Mamma mia, sapete che questo software gli operai delle fabbriche italiane ce l'hanno da un centinaio di anni, era il cartellino dei dipendenti, dei soggetti, dei gruppi privati e anche dei gruppi pubblici, ce l'hanno da qualche decina di anni, una volta si chiamava cartellino, adesso si chiama badge, ma sempre quello va a vedere quando entri e quando esci anche in pausa. Siamo nel 2015, speriamo che il Consiglio Comunale di Bari studi bene questo software e arrivi a un modello di cartellino per verificare quanto stanno dentro i consiglieri comunali. Magari anche con una scritta vergogna quando è uscito. Dici, non lo so, ma io. Stai, stiamo buoni, stiamo buoni. Andiamo al quarto posto, e qui purtroppo c'è poco da scherzare, perché restiamo in Puglia. Ci stiamo occupando anche della sanità locale, perché io capisco i tagli, capisco tutto, però. Allora, ditemi se è possibile, sempre nel 2015, che una giovane donna in stato di gravidanza la scorsa settimana vada assieme al marito al distretto sociosanitario degli ospedali riuniti di Foggia per prenotare ed effettuare esami di laboratorio, cioè in via Grecia. Allora, doveva prenotare gli esami del sangue e l'ecografia. Arriva alle 10.50, prende il numero B30 sul display rassegnato che si stava servendo il numero A70. C'è un solo sportello aperto per le prenotazioni. Attende in corridoio il suo turno. Alle 11.50, un'ora dopo, tocca a lei. Quando arriva, ha una bella sorpresa. La detta allo sportello ha spiegato che avrebbe potuto prenotare solo l'ecografia per i primi di ottobre, ma nessuna prenotazione degli esami di laboratorio, erano troppi. E poi l'impiegata della AS spiega alla coppia: a mezzogiorno, guardate, è tutto vero, a mezzogiorno ci staccano la connessione informatica. Io non so in quale paese ti stacchino. E non possiamo più inserire le prenotazioni. A parte che dovete scriverlo, signori, chi arriva a ridosso di mezzogiorno, non aspetti, stiamo parlando di donne incinte, ma chi se ne frega ovviamente. A quanto sembra la ASL sta rifacendo la linea della fibra ottica, ma solo a Foggia per rifare una fibra ottica blocchi le, stacchi le linee. Negli altri paesi del mondo cosa fanno? Bloccano tutto per rifare la linea in fibra ottica, va bene. Poi c'è un piccolo altro problema, l'apertura degli sportelli in via Grecia, perché la ASL non riesce a sostituire sempre uno dei due impiegati addetti alle prenotazioni. Quale? Il consigliere comunale Gino Fusco del nuovo centrodestra, il quale legittimamente lascia il posto di lavoro per recarsi in comune alle famose commissioni consigliari. All'ASL hanno assicurato che la sostituzione arriva tutti i giorni da Cerignola, questo è il paese, e che è capitato qualche giorno che lo sportello sia rimasto scoperto a causa di malattia. Qua me la sta tirando qualcuno perché mi sto strangolando in diretta. Allora, non potendo prenotare le analisi del sangue nei laboratori delle ASL, il giorno dopo la coppia si è recata agli ospedali riuniti, dove c'è la possibilità di prenotare e contestualmente fare l'esame del sangue. Siamo arrivati alle 8 all'accettazione, c'è un solo infermiere. 3 ore per fare la prenotazione fino alle 11, poi l'esame del sangue. E poi hanno detto: guarda che noi siamo ingolfati, ci sono 280 prelievi al giorno legati agli esami di laboratorio, il personale è ridotto all'osso, e va bene. Terzo posto, qui sorrido perché non so più come prendere queste cose. Il terzo posto riguarda la mitica regione Sicilia, non ci dà mai tregua. Allora, secondo voi cosa fanno alla regione Sicilia un dirigente, un commissario superiore, 4 ispettori, un revisore, un istruttore e un collaboratore? Una struttura del genere, una task force, mica da ridere. Ripeto, un dirigente, un commissario superiore, 4 ispettori, un revisore, un istruttore, un collaboratore. Si occupano della banda comunale della regione e dei picchetti. Io però a questo punto, se avessimo una cosa tipo da banda, bella. Allora, l'ufficio si chiama attività di rappresentanza, virgola, picchetti e guardia d'onore. Ma cavolo è Buckingham Palace? E guardia d'onore, coordinamento della banda musicale, virgola, divulgazione dell'attività del corpo e sito internet. E cosa fa? Va la banda e i picchetti, il resto finisce nel calendario mensile delle attività. Lo ha detto in maniera molto sorpresa il dirigente generale che si è appena insediato lì, si chiama Gaetano Gullo, e ha scoperto di avere un ufficio appena inutile, 9 persone di alto livello per coordinare le attività della banda musicale e i picchetti d'onore. Forestale, la banda musicale. Ora, quante volte ha suonato la banda del Corpo Forestale della Regione Sicilia l'anno scorso? Cioè, questi 9 tra dirigenti, commissari, ispettori, quanto hanno avuto da fare? Dopo il meteo e la pubblicità, vediamo quante si accettano scommesse. Quante volte avrà suonato questa banda in un anno? Meteo. Focus Economia. Non è questa, non siamo riusciti a trovare l'audio della banda del Corpo Forestale siciliano. Comunque, la banda l'anno scorso ha suonato 4 volte, ma non perché in questo caso non voglia suonare la banda, perché non ha i fondi il Corpo Forestale della Regione Sicilia per garantire le missioni. Lo spiega lo stesso Gullo, che dice: per ogni uscita della banda, che conta 30 elementi tra i dipendenti del corpo in tutta la Sicilia, il costo è di 900 euro per il pranzo nel giorno in cui si esibiscono, poi 2.400 euro se stanno anche a cena e pernottano. Evidentemente, se vai a fare la banda in giro per la Sicilia può anche succedere di pernottare, se sono previste prove il giorno prima del concerto. Quindi si arriva, poi si bisogna sommare 300 euro per la benzina più gli straordinari, conti alla mano, la spesa può arrivare a 3.000 euro per esibizione. Ma come aggiunge Gullo, io per il Corpo Forestale ho a disposizione, per controllare, per le missioni, tutte le missioni di controllo di quello che c'è nell'isola, tutte 150.000 euro l'anno. Rendiamoci conto, cioè si riesce a spendere gli stipendi per un dirigente, un commissario superiore, quattro ispettori, un revisore, un istruttore, un collaboratore per gestire il picchetto e la banda, e poi ha a disposizione 150.000 euro l'anno, cioè niente, per andare a fare le missioni vere che dovrebbe fare un corpo forestale. O decidiamo che mentre bruciano le Madonie, la grande reazione può essere che la banda si mette lì a suonare e magari distrae l'incendio, non lo so, può essere tecniche nuove, Torniamo, non torniamo, non te reghi più perché ho la seconda e poi la prima notizia. Allora, la seconda riguarda il Presidente del Consiglio, non se ne abbia, però il Presidente del Consiglio, se proprio vuole occuparsi della RAI, allora diciamo una cosa, in primo luogo non è mai elegante, lo dico, che un Presidente del Consiglio si chiami Berlusconi, Renzi, Monti, non me ne frega nulla, si occupi di quello che fanno i telegiornali o i programmi di approfondimento della RAI. Non, gli editti non servono a paragonare Rambo ha fatto più ascolti. Quando abbiamo bisogno di analisi sul palinsesto chiamiamo altri esperti. Presidente del Consiglio, è sgradevole che se ne occupi perché sembra chiaramente una pressione sui conduttori e va tutta la mia solidarietà. Abbiamo avuto nel passato Presidente del Consiglio che si occupavano più dei palinsesti che di fare le riforme e si è visto con quali conseguenze del paese. Caro Presidente Renzi, si occupi delle riforme, le porti a casa a partire da quella della pubblica amministrazione e lasci stare quello che fanno i conduttori dei talk show. Poi saranno gli ascoltatori a decretare la fine, il successo o l'insuccesso di un talk show. Ma è inelegante. Se proprio vuole dare un segnale alla RAI, commenti il fatto che dopo che lei era stato già a New York per la famosa finale degli US Open con due italiane, il volo era costato 150.000 euro, la RAI ha mandato a seguirla una vera e propria batteria di inviati a spese del servizio pubblico, 7 inviati, e nonostante sono 5 inviati più gli operatori, ci sono già 2 corrispondenti presenti, sono Tiziana Ferrario e Giovanna Botteri, 7 giornalisti, le testate erano TG1, TG2, TG3, più Rai News 24 e i giornali radio della Rai. Alla RAI ha detto che le 2 inviate di punta, le corrispondenti, erano impegnate a seguire il viaggio del Papa negli States. Comunque non si capisce cosa facessero gli altri 5. Allora, visto che c'era già stato il precedente del G20 in Australia e spuntarono 5 microfoni RAI per un'intervista a Renzi. Allora, se vuole essere, e quella volta costò 60.000 euro il giochino di mandare 5, siccome pago anch'io il canone, abbiate pazienza, posso parlare della RAI. Però, Presidente del Consiglio, veramente, se vuole dire qualcosa sulla RAI, inviti i direttori a coordinarsi in maniera sinergica, a mandarne uno, due, non lo so, quello che riescono, uno per il TG, l'altro per il GR, fatti loro, non entra nei contenuti dei format televisivi quando parlano di politica e magari non le sono totalmente favorevoli, perché è sgradevole, ripeto per la terza volta, era sgradevole nel passato, è sgradevole quando lo fa anche lei, e piuttosto dica alla RAI: guardate, mi basta un inviato oltre ai corrispondenti, è più che sufficiente per quello che devo dire, poi ve lo gestite nei vari TG. Sarebbe più bello, più elegante e anche forse più credibile. Oh, chiudiamo in bellezza perché abbiamo anche oggi il numero uno e poi passiamo invece all'imprenditore che si è messo in gioco e ha lanciato un'attività negli anni della crisi. E oggi andiamo al numero uno. And the winner is... Tirerei una capocciata contro lo schermo. L'Enit. Perché la tirerei? Perché penso che sia da 8 anni, 9 anni, 10 anni che ci occupiamo dell'Enit. Allora, l'Enit a che punto è? Continuiamo a dire che il turismo è il nostro oro nero e abbiamo visto che i dati anche sull'occupazione sono migliorati grazie al settore del turismo, che i dati sul PIL hanno avuto un'iniezione grazie al turismo quest'anno che è andato bene, complice l'euro più debole, complice le tensioni, i disastri, le guerre in altre aree del Mediterraneo, tutto quello che volete, ma insomma... L'Enit dovrebbe essere un ente fondamentale in questo paese, a mio avviso dovrebbe essere coordinato con le attività del Ministero dello Sviluppo Economico, con l'ICE, con un paese serio coordini Enit e ICE, perché fai promozione comunque del paese fuori. Faccio notare che in Germania la prendono seriamente, anche in Francia, in Gran Bretagna o in Spagna, l'ente del turismo per promuovere e portare turisti nel loro paese, spendono circa 70 milioni a testa, Francia, Gran Bretagna e Spagna. Noi quanto spendiamo per il turismo come budget di promozione? Qualche centinaio di migliaia di euro all'anno. E io dico, vabbè, almeno risparmiamo sul resto. Eh no, perché noi spendiamo 17.600.000 euro per l'Enit, certo una volta erano di più, erano 50 milioni, ma solo poche centinaia di migliaia di euro vanno alle promozioni, il resto dove va? Va a pagare gli stipendi dei 78 dipendenti dell'Enit, che non ne vogliono sapere di finire nella nuova agenzia per il turismo. Pensate che quasi uno su due è un quadro o dirigente. La busta paga in media è più alta dei dipendenti della Casa Bianca, sono 85.897 euro in media contro i 62.300 euro dei dipendenti della Casa Bianca. Ma vuoi mettere la Casa Bianca, così è un giochetto, vuoi mettere a lavorare all'Enit? Allora, ripeto, c'è un commissario all'Enit, Cristiano Radaelli, incaricato di dare una sistematina ai costi, tra per esempio un taglio del 30% sugli affitti, e convertire l'ente statale in un'agenzia per il turismo. Che cosa è successo? Che stanno arrivando i ricorsi sia dei dipendenti Enit, che non vogliono perdere il loro status, sia dei precari di Promovitalia. L'ultima diffida è appena arrivata, uno studio di avvocati per conto di due delle sette sigle sindacali. Ci sono sette sigle sindacali dentro l'Enit per 78 dipendenti, vuol dire che ogni sigla sindacale rappresenta 11 dipendenti. No, questo è intima a tutti, da Palazzo Chigi, nuovi consiglieri, di non fare un passo in avanti e quindi di bloccare tutto. Faccio notare che l'Enit viene da una storia non edificante. Le sedi estere, un centinaio di dipendenti stranieri per 23 filiali, andavano da quella megalomane del New York, a New York al Rockefeller Center, che prima di venire spostata dal commissario all'Istituto Italiano di Cultura costava 400.000 euro. C'erano uffici come Vienna che spendevano solo in giornali, in mazzetta di giornali, 20.000 euro l'anno, cioè 77 euro al giorno di giornali. E poi addirittura c'è un ricorso dell'unico giornalista dell'Enit che è riuscito a farsi riconoscere la qualifica di direttore, no? Poi c'erano i manager piazzati negli anni, c'era quello molto vicino all'ex ministro Brambilla, Paolo Rubini, nominato direttore generale con nel suo curriculum aveva la vicepresidenza della Steamway Biotech, azienda specializzata nel congelamento di cordoni ombelicali. Non sto scherzando. E lo mandi a fare il dirigente dell'Enit, forse perché era specializzato in congelamento e quindi quello serviva. E poi le selezioni di dirigenti mandati all'estero, vogliamo ricordarci dell'ex segretaria comunale di Zeme, provincia di Pavia, mandata a conquistare il mercato cinese a Pechino, a rappresentare l'Enit a Pechino, da Pavia a Pechino, insomma. Cos'era il comune denominatore? Il riso, immagino, ecco, questo, le risaie le conosceva bene, ragazzi. Oppure un suo collega inviato in Brasile, dove però non riuscì a ottenere il visto e quindi rimase a Buenos Aires. Ma nella vita funziona così. Ma se tu devi andare a rappresentare l'ente italiano per il turismo a San Paolo a Rio e non ti danno il visto, resti a Buenos Aires, ma è normale, dai. E poi c'erano le indennità varie, no? In totale pigliavano circa 300.000 euro l'anno. E i sei pensate che tutti questi sei distaccati d'oro sono stati fatti rientrare dal commissario Radaelli. E gli hanno fatto pure causa, però, perché la vergogna, la dignità in questo paese è merce rara. L'hanno persa, tra l'altro. E l'Enit sta risparmiando solo grazie a questi 6 1.900.000 euro l'anno. Un applauso all'Enit, perché ci dà sempre grandi fonti di gioia, e un grazie anche a Gian Antonio Stella per ricordarci puntualmente quello che in questo paese non cambia: traffico, poi l'imprenditore, la borsa, il risico bancario e Volkswagen. Gran Moravia con l'etichetta multimediale ti fa visitare la sua filiera ecosostenibile. Vi presenta Focus Economia. Sette e 51 minuti. No, non posso tornare sul software per i dipendenti del comune di Bari. Qualcuno mi scrive: basta che non lo faccia la Volkswagen. Va bene, così uniamo il tema di apertura con il tema di chiusura. Gianluigi Parrotto, buonasera. Buonasera a tutti. Quanti anni ha lei? 21. Oh, forse abbiamo battuto il record, è il più giovane dei nuovi imprenditori che stiamo ospitando apposta, volutamente, accanto alla classifica degli sprechi. Che cosa, da dove viene innanzitutto e che cosa avete creato? Io sono salentino, vengo da Casarano e ho creato... Visto che la Puglia anche oggi era protagonista della classifica, bene, bene. No, bene in positivo, dico. Certo, e abbiamo creato insieme al mio team di ingegneri, una turbina eolica domestica che si installa sulle abitazioni. Una turbina eolica domestica. Oh, e come si chiama il gruppo? Si chiama Air Group Italy, è la mia azienda, del quale io sono il presidente, e produciamo delle turbine eoliche verticali, le produciamo nel Salento, a Lecce. Senta, mi faccia capire, perché turbine eoliche io, insomma, quando faccio la classifica ce le ho, ma non posso spiegare esattamente dove, sono più basse e prendo il mal di gola, ma seriamente la sua, cosa io faccio, metto questa turbina eolica sul tetto di casa, chiedo? Sì, sì, sì, questa turbina si installa sull'astricato solare, sì, sul comune tetto di casa. E quanto è grande? È alta 1,5 metri x 1 metro di diametro e pesa circa 80 kg. E quanto produce, serve a produrre elettricità, energia, immagino? Serve a produrre energia elettrica per un risparmio energetico sostanziale in bolletta che si aggira intorno alle 350 euro all'anno. All'anno. E quanto costa? Costa circa 2.900 euro e si gode della detrazione fiscale su questo costo. Ma i 300 euro sono una media, perché immagino che dipenda molto dalla zona, quanto è ventosa, quanto non è ventosa, cioè produce quanti kilowatt all'anno più o meno? Diciamo siamo dai 700 ai 1.000 kilowatt all'anno circa. Ma è già commercializzata e ne avete vendute? Sì, noi ne abbiamo già installate 50, anzi finiremo di installare le prime 50 e poi dal 15 di ottobre in poi ne installeremo altre 30-40. Concluderemo insomma la nostra vendita delle prime 150 turbine a fine ottobre per poi arrivare a fine dicembre con altri numeri. Senta, quanti siete a lavorare per questo progetto, che appunto non è solo un progetto, visto che ne avete già vendute 50 e avete ordini per altri 60? Noi abbiamo 40 persone che lavorano con noi e 10 persone di queste sono addette al reparto di ricerca e sviluppo che è interno alla mia struttura. E che fatturato prevedete per quest'anno? Perché sono tante persone per essere... Sì, sono tantissime e sono fiero di questo perché è un mio obiettivo principale, quello proprio di dare delle opportunità insomma alle persone, perché in questo periodo è abbastanza difficile, e prevediamo di chiudere al 31/12 con 1.800.000-2.000.000 di fatturato. 2 milioni di fatturato. Allora resti con noi perché mi piace, poi è bello, insomma, un 21enne che ha già assunto 40, li avete assunti come? Sono collaborazioni, contratti? Abbiamo sfruttato il decreto insomma del governo Renzi. Ma quale? Il Jobs Act o la decontribuzione? Jobs Act, sì. Se che poi prevede anche la decontribuzione. Sì. Allora resti con noi, ho un paio di domande ancora da farle, 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, GR24. Scienza delle donne per cambiare il pianeta è il tema della 16ª edizione di Donna, Economia e Potere, il seminario internazionale della Fondazione Bellisario. 20 relatrici provenienti da tutto il mondo e 300 tra imprenditrici, manager e professioniste si confronteranno a Milano venerdì 2 ottobre alle 15 presso il Centro Congressi Fondazione Cariplo e sabato 3 ottobre alle 10 in Expo Padiglione Italia. Non perdere l'appuntamento con la leadership femminile. Per accreditarsi, info@fondazionebellisario.org. Il segnale orario vi è offerto da... Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Oscar, ce l'ha con te questo? Ma no, ce l'ha con te, no, Alessandro, ce l'ha con te. Ma non è vero, dai. Allora, ce l'ha con tutti e due. Ah, sì, perché c'è una grande novità. Dal lunedì al venerdì alle 8:15 su Radio 24 c'è Attenti a Noi Due. Che poi siamo noi due, Oscar noi Giannino due. E Alessandro Milan. Non perdetevelo su Radio 24 dalle 8:15 lunedì e venerdì. Attenti a Noi Due. Focus Economia. 18:08, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, Gianluigi Parrotto, che è il nostro imprenditore della settimana, in contrasto con quanto abbiamo raccontato nella prima ora, come sempre, dalla nostra poco invidiabile classifica, la stanno massacrando i miei ascoltatori, perché dicono che se lei vende 100 turbine a 3.000 euro l'una, come fa ad arrivare a 1 milione... a 2 milioni di euro di fatturato come il vostro? Ma perché quello è un risultato che abbiamo ottenuto in 2 mesi da quando siamo partiti sul mercato, perché la turbina è uscita in pubblico il 20 di luglio e noi al 30 settembre abbiamo venduto 110 turbine. Okay. No, anche perché mantenere 40 dipendenti con un fatturato di 1.8-2 milioni di euro è dura. Comunque noi apprezziamo l'iniziativa. Mi dica intanto dove vi state rivolgendo, ma soprattutto chi vi ha aiutato sia come finanziamento che come avvio dell'attività, così. Allora, noi siamo un gruppo di soci, il Gruppo Italy è un gruppo di persone che sta supportando, insomma, questa azienda, anche perché noi il nostro core business principale, diciamo, sono le turbine eoliche, ma non ci occupiamo solo di turbine eoliche, quindi della vendita di turbine eoliche, ma progettiamo anche, quindi il nostro reparto di ricerca e sviluppo progetta anche delle nuove tecnologie conto terzi, quindi noi mettiamo a disposizione anche la nostra struttura per le altre aziende. Noi siamo stati aiutati, diciamo, sostanzialmente da un gruppo estero che ha acquistato un nostro vecchio progetto per diversi milioni di euro. Questo ci ha permesso di innovare ancora di più il nostro prodotto, crearne uno nuovo e comunque impiegare altre persone a lavorare in altro. Oh, per cui, insomma, e qualche problema, cioè, agevolazioni con la Regione Puglia, con la burocrazia? Noi non abbiamo, no. Noi attendiamo ancora da 3 anni l'opportunità di poter accedere a dei fondi della Regione Puglia. Beh, in bocca al lupo su questo, bravi. Comunque lei ha 21 anni, ha tutta la vita davanti e da questo punto di vista va avanti così. Poi vediamo, che so che mi diceva prima che volete arrivare a 60 dipendenti. Sì, noi nei primi 2-3 mesi massimo del 2016 arriveremo senz'altro a 60 dipendenti, perché stiamo aprendo anche un'altra struttura che potrà creare occupazione. Comunque voi due finanziamenti, uno da 100.000 euro dalla Banca Popolare Pugliese, un altro da 110 dalla Banca Sella, li avete avuti senza... Io a 18 anni, due affidamenti bancari senza garanzie reali, se non le mie fideiussioni, quindi io devo dire soprattutto grazie a Banca Sella e a Banca Popolare Pugliese. Oh. Sì, sembra una cosa strana, però sì. No, perché è strana? Ma quando le banche aiutano l'impresa sul territorio, noi siamo contentissimi, potremmo fare anche una rubrica su questo. Grazie intanto a lei, in bocca al lupo a lei, a tu soprattutto ai 40 dipendenti. Grazie a Gianluigi Parrotto. Noi restiamo in tema di banche, ma per tutt'altro motivo, e quindi ci spostiamo sulla borsa e sulle ipotesi nuove di risico bancario. Partiamo dalla borsa, però più 1,20% Milano in chiusura di settimana, Parigi più 0,70%, Francoforte più 0,40%, Londra più 1%, gli Stati Uniti meno 0,26%, molto bene Saipem più 6,35%, IUX più 4,80%, Monte dei Paschi più 4,5% e Mediolanum più 4%, CNH Industrial più 3%, Tenaris più 2,80%, Unipol più 2,60%, come A2A e Prismia. Nel 2,5% lo guadagna anche Fiat Chrysler, il 2,20% Enel Green Power, il 2% è il rialzo di Eni ed Enel. Male invece Telecom Italia meno 2,60%, Moncler meno 2,5% e TOZ meno 1,40%. Andrea Fontana, Radio Corriere sulle 24 ore, buonasera. Buonasera Sebastiano. Al di là delle banche, di cui vorrei parlare tra un attimo, Lusso oggi si vende, l'abbiamo visto, c'è poco da commentare, però invece Saipem molto forte e anche IUX. Sì, il Lusso si si vende perché insomma il timore è che gli Stati Uniti, insomma le prime indicazioni sui dati americani siano i primi effetti diciamo di quel rallentamento globale che ha la Cina come principale fattore scatenante. Nel settore del lusso invece bene Iux, perché è arrivato l'ultimo ok, quello della Consob, all'operazione di integrazione con la francese Net-a-Porter del gruppo Richemont, da lunedì sarà operativa la fusione e anche in borsa i titoli di Iux comprenderanno diciamo gli effetti di questa operazione, quindi alta visibilità e titolo più in alto del 4,8% oggi. Su Saipem, oltre a un buon recupero in generale del settore petrolifero, molte indiscrezioni sul riassetto e sull'aumento di capitale che ormai è dato per scontato dal mercato tra i 2 miliardi e mezzo e i 3 miliardi di euro. La prossima settimana potrebbe già essere una settimana importante, banche al lavoro e quindi il mercato scommette che questo riassetto ormai sia imminente, il titolo è salito oltre il 6%, ma bene nel settore petrolifero anche Tenaris più 2,8% e anche Eni più 2,1% dopo l'annuncio di 3 nuovi giacimenti in Messico dove si offshore e quindi un annuncio importante. Allora, banche al lavoro anche su loro stesse, come racconteremo tra un istante, migliori e peggiori, EMS più 9,26%, RWE più 7%, Saipem appunto più 6,35%, peggiori Borgosesia meno 9,40%, Alba Private Equity meno 8,90%, Olidata meno 7,5%, Blue Note meno 7,34%. Buon fine settimana a Andrea Fontana e a tutti i colleghi di Radio Cori Sole 24 Ore, noi però restiamo in tema di banche. Alessandro Graziani del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a voi. Hai rovinato il fine settimana ai vertici di Intesa San Paolo e Unicredit, che prontamente oggi hanno smentito le ipotesi che anche tu però definivi oggi sul Sole 24 Ore vicine alla fantafinanza, che però stanno circolando, c'è un dossier di fusione tra Unicredit e Intesa San Paolo con poi coinvolgimento del Monte dei Paschi di Siena. Però al di là di questo, Alessandro, tu che segui da sempre per Sole 24 Ore il mondo bancario, che cosa dobbiamo attenderci da qua, diciamo, al primo di gennaio, quando le 10 banche popolari dovranno trasformarsi in SPA? Perché poi conterò le varie nozze ipotizzate. Alessandro. Il punto di partenza in questa fase è il Monte Paschi. È lo snodo centrale, perché c'è una richiesta pubblica ufficiale della Banca Centrale Europea, che vigila anche su Monte Paschi, di procedere a un'aggregazione con un'altra banca. Hanno fatto svariati tentativi con banche estere che non sono riusciti a fare, e a questo punto la soluzione potrebbe essere cercata quindi in Italia. Le alternative non sono molte, le due grandi banche, Intesa e Unicredit, ma i manager assolutamente non vogliono. Resta il fatto che c'è tra i palazzi del governo, delle istituzioni e anche di qualche grande azionista di Unicredit o Intesa questo dossier che circola e che servirebbe appunto alla fine di tutto a portare Monte Paschi dentro una delle due grandi banche attraverso un'operazione complicata che per il momento tutti smentiscono, e quindi vediamo come proseguirà nelle prossime settimane. Sì, anche perché Monte dei Paschi era data anche in sposa a UBI, se non ricordo male, nel passato. Lì poi c'è la Pop Milano, che avrebbe guardato sia la Popolare Emilia Romagna che a Cassa di Risparmio di Genova, però si parlò anche di UBI e Banco Popolare. Mi sembra tramontata l'ipotesi Veneto Banca Popolare di Vicenza, Banco Popolare che hai visto appunto anche in matrimonio con UBI. Ti risulta che siamo ancora, diciamo, alle sette spose per sette fratelli? Ma credo che sotterraneamente ci siano colloqui anche abbastanza avanzati in più direzioni. Però adesso c'è questo snodo nuovo per il mondo delle popolari, che è la data del 7 ottobre, quando il TAR del Lazio è chiamato a pronunciarsi sul ricorso d'urgenza presentato da alcuni azionisti delle popolari per chiedere di bloccare la riforma delle popolari. Questo è è effettivamente un passaggio non indifferente, perché se ci dovesse essere la bocciatura del TAR tutto ritornerebbe in gioco. Ah beh, si ricon... passata quella data sì, avremo un'accelerazione se dovesse... esatto. Eh beh, se il TAR dà ragione al ricorso è chiaro che ricongela tutto, se, tutto il sistema. Grazie Alessandro, anche perché appunto da qui a dicembre, TAR permettendo, ne vedremo delle belle. Adesso chiedo scusa al traffico, devo lanciare le informazioni sulla viabilità e poi con Tobias Spiller il Dieselgate nella sua componente, se mi permettete, anche più politica e di immagine della Germania, non solo in quello che è successo, qualche aggiornamento c'è ma non enormi novità oggi. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Focus Economia. Ultima parte di Focus Economia. Allora, il Dieselgate. La Procura di Parigi oggi ha aperto un'inchiesta preliminare per truffa aggravata nello scandalo dei motori diesel truccati dei veicoli Volkswagen, del gruppo Volkswagen. Da noi l'antitrust, l'autorità garante della concorrenza, ha deciso di avviare un procedimento istruttorio con l'ipotesi di pratiche commerciali scorrette nei confronti della società Volkswagen. E poi sono arrivati, ha detto il ministro Del Rio, i dati dell'azienda, si procede, ritireranno i veicoli. Mi pare che le cose vadano nella direzione giusta, nel giorno in cui però il Financial Times ipotizza, e lo abbiamo detto in apertura, che possa non esserci solo Volkswagen. Il Financial Times oggi avanza l'ipotesi che le autorità americane stiano lavorando anche su altri marchi, 20 modelli dei gruppi BMW, Chrysler, General Motors, Land Rover e Mercedes-Benz, sempre da parte delle autorità americane. Allora, al corrispondente, intanto saluto e ringrazio il corrispondente dall'Italia della Frankfurt Allgemeine Zeitung, Tobias Spiller. Buonasera Tobias. Buonasera. E devo dire che apprezzo anche il coraggio, perché sai, insomma, che venire in questo programma non è venire in un programma pro Germany. In realtà la domanda è un po' diversa oggi, perché la sensazione, al di là della vicenda del gruppo Volkswagen, abbiamo raccontato in tutti i modi, oggi il presidente della Bundesbank ha detto le conseguenze Weidmann sono imprevedibili, occorre correre ai ripari, perché affinché il marchio Made in Germany non subisca danni fondamentali. E qui c'è già la mia domanda. La sensazione che noi abbiamo avuto sia nell'opinione pubblica non tedesca che in quella tedesca, che la vicenda Volkswagen non sia diventata, non sia rimasta la vicenda di un produttore di auto tedesco numero uno al mondo che delude in maniera incredibile i suoi clienti, ma ci fosse anche dell'altro, diciamola tutta. Se avessimo truccato produttori italiani o francesi le auto, i tedeschi, la sensazione è questa, sarebbero stati i primi a dire: ecco, vedete voi italiani, voi francesi, che non state alle regole. Cioè che la Germania, politicamente, essendosi in qualche modo posta sul piedistallo di chi col ditino ti dice stai alle regole, rispetta le regole, fai come noi, le regole vanno rispettate, così si sia presa un boomerang in faccia più forte anche della vicenda in sé, cioè che ci sia una componente anche culturale e politica nel dire vedi che abbiamo beccato i tedeschi con le mani nella marmellata. Cioè non pensi che ci sia anche questo nell'intera vicenda? Ci sono vari livelli di discutere tutto questo. Da un lato sono i tedeschi stessi che sono infuriati tanto perché questo passo che ha fatto sbagliato, questa truffa che ha fatto la Volkswagen in America, certamente non mette solo a repentaglio il marchio Volkswagen o uno dei gruppi industriali più grandi della Germania, ma anche il margine degli altri produttori di auto e certamente anche il Made in Germany. Certamente ci sono poi vari elementi che si mischiano. Al momento sembra che ci sia stata una truffa vera e propria in America. Non si sa che succede in Europa, perché la tecnologia che è stata usata in America è stata diversa fino a poco tempo fa, e così dire semplicemente che abbiamo messo la stessa software in 11 milioni di macchine, può anche dire che è stato dormiente. Ma Tobias, tu però hai capito la domanda, che in realtà è anche per dire che c'è stato, sì, se mi passi il termine, non dico un accanimento perché proprio non riesco a piangere, ma una voglia di dire: bene, adesso avete rotto per tre anni, avete bacchettato tutti i paesi dell'area europea, avete fatto arrabbiare anche la Casa Bianca, che diceva non è possibile incartare l'area euro per la vicenda greca. Vi ergete sempre a giudici supremi, diciamo, delle regole. Insomma, c'è chi trucca i conti come i greci e c'è chi trucca le auto come i tedeschi. Questo è il messaggio. Allora fatemi dire che andremo a vedere che cosa è stato truccato in Europa. Questo ancora dobbiamo farlo vedere. Tanti fanno adesso delle indagini e questo lo vedremo. Dopodiché, certamente io dico, i tedeschi non si sono messi sul piedistallo, ma vedo certo la piazza gioia su questo passo sbagliato di un'azienda tedesca. Ma come non volete voi in Italia che si generalizza, così non lo vogliono i tedeschi. No, ma se uno, ma guarda, Tobias, io sono d'accordo su questo. Questo invalida poi tutti i trattati che ha fatto la Germania con l'Italia su Maastricht, sull'accesso dell'Italia all'Unione Monetaria, sul fiscal compact, il cambio di garanzia. Tanto io sono invalida tutto questo. Io sono d'accordo che prima ho detto, attenzione, che qua godere se la Volkswagen va in difficoltà è anche un po' masochista. Noi forniamo 3 miliardi di componentistica italiana per le auto tedesche, quindi attenzione. No, ma io volevo ragionare più in chiave del perché questa vicenda ha avuto questo contorno e anche esposizione mediatica pazzesca. Il fatto che Weidmann dica, attenzione, qui è in discussione il marchio Made in Germany, il fatto che Schäuble sia rimasto zitto per 2 settimane, parlava 3-4 volte al giorno sulla Grecia per poi dire ne usciremo, ma la Volkswagen non sarà più la stessa, cioè si rimane senza parole. La sensazione è stata che forse dal punto di vista dell'immagine della Germania sia stato un po' un azzardo ergersi sempre a chi bacchetta, perché poi quando la bacchetta ti si rompe e, diciamo, finisce in un'altra parte, la gente gode e gli altri paesi dicono bene, adesso tocca pure a te. Capisci, Tobias, cosa sto dicendo? Assolutamente si capisce. Certamente se negli anni 2011, 2012, 2013 la Germania insieme ad altri paesi ha dato delle garanzie con anche dei soldi, con delle garanzie finanziarie all'Unione Monetaria, e è stato dato in cambio di queste garanzie qualche promessa tipo fiscal compact e altro, e perché non è permesso dire, cari signori, poco tempo fa abbiamo fatto degli accordi, li avete già dimenticato e adesso lo mettiamo sullo stesso piatto? No. Però Tobias, dimmi la verità. La Germania deve seguire le regole, anche nelle missioni. Volkswagen deve seguire le regole. Ma no, non sto confondendo, tu hai capito benissimo, però dimmi la verità. Lo sappiamo sì io e che te, tanto non ci sente nessuno. Se lo scandalo fosse nato per delle auto Fiat o delle auto Peugeot, voglio dire, la Germania avrebbe iniziato una... ecco che voi vedi gli italiani come sono, cioè questo stesso elemento che avete anche tante volte lamentato, che non vi piacciono gli accordi che sono stati fatti, può anche essere che non piacciono. E questo stesso ha messo certo la Volkswagen sul piatto adesso per essere criticato. Cioè io, quello che voglio dire, Tobias, che sono d'accordo con voi che questa vicenda Volkswagen abbia avuto anche una connotazione tra virgolette politica o culturale superiore alla vicenda in sé. Era questo che cercavo. Perché state sulle balle? Non so più come dire. No, sto scherzando. La Bibbia del settore, così in America, ha scritto poche settimane fa che sta proprio combinando le multe a un grande gruppo che si chiama Fiat Chrysler Automobiles, perché avrebbe fatto dei sbagli nell'organizzazione di 23 richiami in 2 anni e guardano 11 milioni di macchine. Nessuno ha mai sentito questo, certamente i tedeschi per tutto quello che è di cultura, di sfida, anche un po' l'atteggiamento. Dico sempre ai miei colleghi, attenzione a fare i primi della classe, perché poi quando inciampa il primo della classe, il resto della classe, God, non è bello, ma bisogna stare attenti a ritenersi più puri di altri, perché poi tutti noi insomma, siamo esseri umani e i governi devono rispettare gli accordi, hai ragione su questo, ci mancherebbe, e i greci nessuno li ha mai perdonati per aver truccato i conti, però secondo me adesso tutti i rapporti si porranno in maniera un po' più umana, di comprensione umana, delle debolezze umane, degli errori umani, siamo tutti umani e non ci sono superiori. Grazie Tobias, ho apprezzato molto la tua disponibilità, grazie al corrispondente della Frankfurt Allgemeine Zeitung in collegamento con noi, da Sebastiano Berisoni l'augurio di una buona serata, un ringraziamento come sempre a Mauro Del Corno, Barbara Bianchi per l'assistenza in redazione. Focus Economia torna lunedì dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.